Questa è la sigla, l'appuntamento serale consueto su Radio Lombardia, Linea Rock. Sono le 20 superate da 4 minuti, siamo nella giornata del mercoledì 2 di luglio. Innanzitutto, buona cena, ben sintonizzati, ma cosa accade in Linea Rock ogni mercoledì? Non sono da solo, ospiti tutti maschili, devo dire, però la prossima settimana ci sarà la femminuccia, ospiti sono di volta in volta, di settimana in settimana, sarà così sino alla fine di questo mese. Miei colleghi di Rock FM, questa sera, come abbiamo annunciato, abbiamo con noi Mr. Giulio Caperdone. Eccolo, eccolo qua. Grazie Marco per l'ospitalità. Figurati. Pensa che l'ultima volta che ho avuto un microfono davanti non riuscivo a parlare. Guarda, mi ricordo bene, sappiamo qual era l'occasione, però che tu proponi un programma live, a parte quella che è stata l'ultima settimana di Rock FM, dobbiamo risalire ai tempi di Yabba Dabba Doo o cosa? Sai che non me lo ricordo, no? Penso 2006. Poi sveleremo il perché, sì, naturalmente. Sì. Allora, il programma che ti ha caratterizzato nel corso di questi ultimi anni, da te creato, ideato e prodotto, si chiama Eclettica, giusto? Sì, si chiama Eclettica da tantissimo tempo, ancora prima di Rock FM. Ah. Perché quando tu ti sei convinto di chiamarmi Rock FM nel 1994, lavoravo in altre emittenti e mi sono portato dietro la trasmissione, il nome della trasmissione, poi il formato con il tempo è cambiato in parte. Il nome della trasmissione lo permetteva, d'altronde. Giusto. Era stato creato apposta. Del resto è come il mio Linea Rock attuale, che non ho sfruttato a Rock FM, me lo sono portato dietro dai tempi di Radio Peter Flowers, vedi? Uh-huh. Alla fin fine gira tutto. Bene, allora, i contatti a questo punto, so che li hai di fronte anche te, cedo l'onore. diretta@radiolombardia.it per quanto riguarda l'indirizzo di mail, sms 339-266-3825, il telefono ha senso darlo invece. Diamolo questa sera. Ok, 02-688-4230, ma mi permetto di sottolineare soprattutto la urlobox sulla Rock Family. Ok, abbiamo detto tutto perché è così di solito la mia presentazione. Tra non molto andremo a spiegare e a inoltrarci in quelli che sono gli ambient musicali di Eclettica. Lo abbiamo divisa, poi lo spiegherai in tre parti in queste nostre tre mezz'ore. Ci saranno il meglio di come era strutturato e di come può essere in futuro, te lo auguro, strutturato Eclettica. Ma per iniziare, un po' di musica italiana, una band che conosciamo molto bene, soprattutto benissimo. Tu sì, benissimo, sono molto contento di partire con gli After Hours, perché questo è un bel disco, come tutti i dischi che hanno fatto, e poi perché la loro storia si è incrociata spesso con la mia, fin dai loro inizi e fin dai miei inizi. Bene, allora li ascoltiamo con un estratto dall'ultimo loro lavoro, si intitola Riprendere Berlino. Luce del mattino, luce di un giorno strano, pensavi di esser perso, cambia il tuo destino, non sarebbe bello, non farsi più del male, e non sarebbe strano, se capitasse. ha portati ad una prima fase che si è conclusa verso il 23-24 di maggio. Poi sono andati all'estero, Canada, America, per alcune date, ma mi sa che domani ripartono per quest'estate. Sì, infatti, siamo andati a vedere sul loro sito di MySpace e abbiamo trovato la data di domani, 3 luglio, Sorbolo in provincia di Parma, e poi dall'11 luglio girano un po' per tutta l'Italia. Tu pensa che la prima volta che li ho intervistati si sono persi nelle campagne lodigiane, eravamo a fine anni 80 e gli avevo dato delle indicazioni su come trovare la radio, ormai la trasmissione era quasi finita, loro non si erano ancora presentati, poi a un certo punto sono riusciti ad arrivare dopo aver chiesto non so a chi, comunque si erano persi nelle campagne lodigiane, fine anni 80. Era inverno, quindi magari periodo di nebbia, era inverno, non esistevano ancora forse all'epoca i navigatori satellitari, non c'erano i cellulari neanche, quindi figurati, eravamo messi bene, quando ci si perdeva sul serio. Ok, allora abbiamo annunciato che questa sera rivivremo alcuni spazi di Eclettica, una trasmissione che hai detto creata da tempo, che ha avuto nel corso degli anni delle evoluzioni e nell'ultima annata, diciamo nell'ultima annata e mezza circa due, l'hai portata ad uno standard che era composto da... Era composto da tre elementi fondamentalmente, oltre alla mia voce, da musica, da film e da incipit, che è stata l'ultima aggiunta. Mi ricordo che quando mi confrontavo con dei miei amici, dei miei ascoltatori, dicendo ma io quasi quasi introdurrei questa cosa delle letture degli incipit, da nessuno avevo ricevuto una risposta entusiasta, un sì deciso, però io sono andato avanti lo stesso, avendo anch'io dei dubbi che la cosa potesse rendere. Poi mi sono reso conto, soprattutto anche negli ultimi giorni di esistenza di Rock FM, quanto questa cosa degli incipit avesse colpito il segno. Sì, sì, infatti, dal fatto che mi hanno fatto leggere degli incipit per strada, o dal silenzio improvviso che si è creato all'interno della FLOG, quel silenzio che tutti hanno sentito, tu compreso. Per chi non sapesse, è giusto anche render conto che stiamo un po' ripercorrendo quelle che sono state alcuni momenti che io e Giulio, insieme agli altri nostri amici, abbiamo vissuto insieme. Primo brano di questa sera. Hai fatto bene a dirlo, Marco, perché io sono molto legato ancora al passato. Certo, per me è la prima diretta dopo Rock FM, quindi per me Rock FM è ancora un ricordo molto forte. Per te magari un pochettino più labile, visto che comunque ci sono. Però hai avuto modo di aggiungere tutta una serie di trasmissioni nel frattempo che sicuramente... Che mi portano via il tempo, però la mente c'è sempre da quello. Ok, abbiamo creato tre momenti di Eclettica, tre momenti diversi che andremo a inserire all'interno di Linea Rock. Le canzoni che ho scelto non sono canzoni assolutamente nuove, mi sembrava troppo forte mettervi canzoni nuove, quindi sono andato a prendere canzoni che dovrebbero darvi una certa confidenza, come questa di Plastic Constellation che Marco ha fatto partire, una canzone che so piace a molti anche in questo momento sulla Urlobox, è Stay That Way. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la vedi? Il bello della contabilità immobiliare è che voi puoi aggiungere cifre in fondo alla pagina, in mezzo alla pagina, e tutto funziona così. Ogni giorno fai quadrare i conti. Insomma, il totale è sempre la somma delle parti. È pulito, è chiaro, limpido, assoluto. Ma la mia vita è quella. Quella non torna, forse. Non lo so, è fatta di pezzi scompagnati. Io non sono la somma delle mie parti. La somma delle mie parti non dà un intero. Non è intero. Trovati una moglie e uno psichiatra. No. Oh, la moglie ce l'ho. Uno psichiatra. Oh, questo è un tipico esempio di quello che è Eclettica con gli insert. Da quale film abbiamo ascoltato? È un film recente, Onora il padre e la madre, un gran bel film, uno dei più belli degli ultimi mesi, secondo me. Sì. Fra l'altro ho scoperto Marisa Tomei sotto una nuova luce, non l'avevo mai vista così sexy. In questo film è veramente una bomba. Ah, ok, una bomba. Invece il brano che abbiamo ascoltato, che si legava? Sì, e questo era Los Fancy Free, uno dei due gruppi messicani, entrambi di Città del Messico, che ho scelto per questa sera, anche se a tutti gli effetti il leader è uno svedese di origine, fa parte di una comunità mennonita, più o meno lo stile è quello degli Amish, che abita in Messico, è messicano, è solo di origine svedese, si chiama Martin Tulin. Beetle Boots and Marco, mi sono perso qua. Beetle Sweet and Orange Boots. No, ancora non sono abituato a questo monitor e le cose a memoria, con l'emozione che mi sto portando addosso sicuramente non riesco a farle. Allora, adesso andiamo a berci un bel cafferino, ci riposiamo, okay. Tra poco torneremo con un'altra delle tue passioni, un'altra band che hai amato, che spesso hai proposto in Eclettica, con il nuovo singolo Dresden Dolls. Tra breve. A dopo. Nothing is cooler than children who come from good homes. God'll forgive them, I guess, but whose side are you on? Driving around the old town, I remember it all. Dropping my lunchbox at town, bags all over. Di Linea Rock su Radio Lombardia, la voce di Marco Gravelli da lunedì al venerdì e mercoledì ospiti, non musicisti, non mi è ancora capitato di ospitarli, sì qualcuno anche musicista, questo è vero, io sono nato solo il flauto dolce alle medie, quindi... vedi già tu quello, io neanche il triangolo, solo il campanello quindi figurati, messo male sotto quell'aspetto. Giulio Caperdoni con noi, vuoi ringraziare un po' di amici che hanno già messaggiato? Sì, al 339 266 3825 quello per l'SMS, poi invece diretta info@radiolombardia.it per quanto riguarda gli email, e poi c'è l'urlo box che scorre veloce, anche se è diventata più lunga, su rockfamily.it. Per quanto riguarda i messaggi che sono arrivati, o sms o email, emozioni incredibili risentire la tua voce alla radio. Quante emozioni e quanti ricordi. Oppure, ciao Giulio, ti ho visto correre in metro quel giorno là, ti avrei salutato volentieri. Stavi andando a San Siro, non per una partita di calcio, ma il concerto dei Negramaro, vero? Il concerto dei Negramaro, sì sì, è stato un bel momento anche quello, sentire lo stadio urlare per Rock FM. Salire sul palco di fronte a, alla fine erano più di 30.000 persone, quindi un'altra, altro che stare al microfono, quella sì che è un'altra emozione. Esatto. Sì sì, veramente. Bello risentire la voce degli Incipit. A proposito degli Incipit, più tardi arriveranno anche quelli, ovviamente. E nel prossimo blocco ci saranno. Cosa c'è ora? Invece, Marco? C'è un personaggio che mi sa che a livello musicale tu hai apprezzato, apprezzi tuttora, Nick Cave. Grande della musica. Un grande della musica, un grande della penna, sia quando scrive canzoni, sia quando scrive anche semplicemente dei libri. Dei libri. Magari gli ultimi album sono più, magari meno commerciali, cioè più commerciali, però noi piace sempre la sua voce e le sue composizioni. I walk into the corner of my room, see my friends in high places. I don't know which or who is whom, they've stolen each other's faces. Janet is there with her high head and hair and full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey Janet, you are the one, you are the sun, and I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that, cause she's heard that before. And I say, uh-huh, yeah, you're right, cause I see Betty X standing by the door with moan news from nowhere. Moan news from nowhere. Yeah, moan news from nowhere. Moan news from nowhere. And it's getting strange in here. Yeah, it's getting stranger. Betty X is like Betty Y minus that fatal chromosome. Her hair is like the wine dark sea in which sailors come home. I say, hey baby, I say, hey Betty X. I lean close up to her throat. This light you are carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty X. Betty X says this light in yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere. Another corner, I go down a corridor and I see this guy. He must be about 100 foot tall and he only has one eye. He asked me for my autograph, I write nobody, and then I wrap myself up in my woolly coat and I blind him with my pen. Cause someone must have stuck something in my drink. Everything's getting strange looking. Half the people have turned into squealing pigs, the other half are cooking. Well, let me out of here, I cried, and I went pushing past. And I saw Miss Polly singing with some girls. I cried, strap me to the mast. For more news from nowhere. More news from nowhere, questo è il titolo, la sta ancora cantando. A proposito invece di canzoni, e che canzone, forse dal quanti ne avranno fatti di album, non me lo ricordo, di canzoni tantissime, stiamo annunciando qualcosa che ascolteremo tra breve, cioè i Beatles, e nelle top 3 dei loro brani, questa ci sta, se non all'1, al 2 ci deve stare. Sì, anche nella mia classifica personale delle canzoni dei Beatles e dei In The Life, io esatto, ce la metto di sicuro. Poi la coda di questa canzone è incredibile, una delle tue passioni, i Beatles, e vorrei scoprire chi non ha la passione almeno per un brano dei Beatles, romantico, rock and roll che sia. Quindi lo troverete e l'ascolterete tra breve in Linea Rocca. army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read Se non sbaglio, questa è una delle più lunghe composizioni dei Beatles, tra le più lunghe, forse sì. Hanno fatto qualcos'altro, magari meno noto, eccetera. Poi però. Questa coda non è molto radiofonica, però sentita in cuffia a casa. Eravamo fine anni 60, sì. I tecnici del suono erano così, avanti anche loro. Bene, siamo pronti ad entrare in una seconda fase di Eclettica. Come avevo detto prima, non ho messo brani nuovi rispetto alle playlist di Eclettica per chi l'ascoltava su Rock FM, a parte uno che è comparso in una micropillola che ho presentato sul sito della Rock Family, ovvero sia il brano che ha preceduto quello che è il nuovo album impronunciabilissimo, il titolo dell'album, dei Sigur Rós. Il brano in questione si chiama Gobbledygook e nel mezzo, prima del brano successivo, ci sarà la lettura dell'incipit, che non sarà registrata, non sarà in playback, ma sarà in diretta. Quindi leggi bene, hai tempo per prepararti il tempo di questa canzone. Ce l'ascoltiamo allora. Sigur Rós. Si abbatté urlando, fendendo l'aria e il cielo senza sforzo. Un bersaglio si ingrandì, messo a fuoco dal tempo e dalla velocità. Ci fu un istante prima dell'impatto, l'ultimo in cui le cose furono come erano state. Poi il mondo visibile esplose. Nel 1945 un musicologo italiano trovò quattro battute della linea di basso di una sonata tra le macerie della Biblioteca Musicale di Dresda. Pensò che si trattasse di un'opera del compositore Tommaso Albinoni e passò i 12 anni successivi della sua vita a ricostruire un brano più lungo del frammento di manoscritto carbonizzato. La composizione che ne risultò, conosciuta come l'Adagio di Albinoni, assomiglia ben poco alle altre opere del maestro veneziano ed è considerata un falso dalla maggior parte degli studiosi. Tuttavia, persino coloro che dubitano della sua autenticità fanno fatica a negarne la bellezza. Quasi mezzo secolo più tardi, è proprio questa contraddizione ad affascinare il violoncellista. Il fatto che una cosa possa finire quasi cancellata sotto le macerie di una città e poi venga ricostruita per tornare nuova e utile, gli dà speranza. E la speranza, a questo punto, è una delle poche risorse rimaste agli abitanti della Sarajevo assediata e per molti va scemando di giorno in giorno. Questo era l'incipit de Il violoncellista di Sarajevo di Stephen Galloway. You carve out the death in your chest. Throw it under your hood. My life's this road which I misunderstood. And I got my head on a string. When I think of these things, how I'm always alone and I'm never at home. Oh my grandfather, Saturn Five, uno dei più grandi successi di questa band, che si sono sciolti, si sono riformati qualche anno fa, hanno fatto parte della cosiddetta new wave inglese della seconda generazione. I Spiral Carpets, e la particolarità è questo Farfisa o Hammond che sia che caratterizzava le loro sonorità. Siete su Radio Lombardia, la voce di Marco Gravelli, la voce di Giulio Caperdoni. 20:56, abbiamo un po' di amici da salutare, quelli che hanno scritto al 339-266-3825, come Mirka, ovvero sia Akrim, per la famiglia. Ok, prima fila come promesso, streaming per me e radio per i vicini. Emozionante, mi manca Eclettica. Grande Giulio, abbraccio fraterno. Questo è quello che di solito lo faceva circolare. Mox, che abbraccia anche Marco naturalmente. Giulio e Marco, i miei supereroi, grazie di esistere. Lui è italiota. Grandi ragazzi, grazie per aver messo i Beatles, Mika alias Schwarzi. Ciao ragazzi, tra un po' devo uscire, ma cavolo, quanto è bello risentirvi. Giulio, c'è proprio bisogno di te in radio. Un abbraccio, Anto Due Rema da Firenze. Giulio, chiamami Shandy, sarò la tua libreria. Kiss da Shandy, grande Giulio, un saluto dal Serpa. Ed ecco le lacrime, vi voglio bene a tutti, tantissimo. Pux, finalmente un incipit, eppure in diretta. Viva Giulio, Michela. Ok, allora, se volete continuare ad inviare i vostri sms, il numero è semplice, prendete nota, 339-266-3825, oppure con una semplice mail diretta a @radiolombardia.it. E tra non molto entreremo nell'ultima mezz'ora, ritornerà un altro spazio di Eclettica con canzoni molto particolari. Questo è un progetto di Mick Jones, ex Clash, con un ex componente dei Generation X, si chiamano Carbon Silicon. Started smiling at everyone I meet, and people started looking and couldn't stand it back. Realized what they could lose and what they always had. People started growing instead of being crushed, and people started slowing down instead of being rushed. People started looking with very different eyes, and this information that comes as a surprise. 'Cause the morning is the news, and all of it is good. Back at me. There's red stains all over the place. Been on the day. like things, but you left talking powder all over the bathroom. And yeah, it's great, you can blur smoke rings, but you won't taste her lips if you do get to kiss her. And it's your party, but I'll die if I want to. I'll die if I want to. Okay, but the fresh air was better, and I couldn't tell if the singer's keyboard was a crutch or a synthesizer, but it sounded like he'd broken a limb each and every time he pushed the key down or in. Atmosfera di eclettica anche in questa formazione. Eh sì, lo scampesino se li ho messi veramente molto, non con questa canzone, con altre dal loro disco. La formazione di Cardiff, che ha una particolarità che li avvicina solo nel nome, per esempio, ai grandi Ramones. Sono 7 membri della formazione, tutti si chiamano Campesinos di cognome. Mi suona un po' strana come cosa. Ecco, allora io prendo spunto, perché adesso mi devi raccontare l'aneddoto. Ci sei arrivato tu, ti sei tagliato le mani da solo dicendo Ramones, e visto che hai citato... No, non sapevo che volevi arrivare qua. Io non volevo arrivare, però mi hai portato tu, mi si è accesa una lampadina, visto che hai citato Radio Lodi, i tuoi primi trascorsi. C'è un piccolo aneddoto che noi conosciamo, adesso rendiamo un po' pubblico. Sì, ma mi sembra che in un certo periodo era comparsa anche su un vecchio sito di Rock FM, nella mia biografia. La più breve intervista che ho mai fatto è stata con Didi Ramon, dopo che aveva lasciato la band, faceva un tour solista. Tu ti sei presentato per intervistarlo. Per intervistarlo, lui comunque aveva lasciato in malo modo i Ramones, e però si presentava con il nome di Didi Ramone, quindi la mia prima domanda era legata proprio a questo aspetto, cioè come mai avesse deciso di mantenere il nome vecchio avendo lasciato la band e poi in malo modo, e lui mi ha risposto semplicemente fuck off e se n'è andato via, e io ho mandato l'intervista così, bravo, giusto, del resto ognuno si prende le sue responsabilità, in questo caso lui. Bene, allora rientriamo al 100% con i prossimi due motivi legati appunto ad eclettica. Vi avevo detto che ci sarebbero state due band, scusa Marco, sono entrato sulle tue parole. Lo spazio è tuo comunque, vai. Lo spazio è nostro. Chiquita Violenta è il nome della band di Città del Messico che chiuderà questa tripletta di eclettica. Nel mezzo ci sarà ancora Onora al padre e la madre, sentiremo anche la voce di Marisa Tomei. Però subito un altro di quei gruppi che ho lanciato nella scorsa stagione di Eclettica, l'ultima su Rock FM, e che so essere molto apprezzato. Sono statunitensi, si chiamano Bridges and Power Lines, e questa è Uncalibrated. Yeah. morto mio padre. Allora. Oddio. Non è giusto! Non è giusto! Per tutta la vita ho avuto paura di diventare come lui, per tutta la vita con te, non è giusto! Non può venirmi a dire che gli dispiace cavarsela così, è troppo tardi, non è così facile, non è giusto! Non è giusto, cazzo! Oh sì! Oddio! Non può farlo! dal Messico. Dal Messico, sì, sì, però loro hanno registrato questo disco in Canada, fra l'altro in un periodo molto lungo, fra 2005 e 2006, sono usciti solo nel 2007. Ripeto il nome, si chiamano Chiquita Violenta e l'hanno registrato con il produttore di Broken Social Scene, che fra l'altro compaiono in più di un membro anche all'interno di questo disco con delle collaborazioni. Ecco, quindi di solito dal Messico arrivavano proposte cantate quasi in lingua madre, invece i due esempi che hai portato tu questa sera li trasportano in una dimensione più aperta anche al mondo americano, eccetera eccetera. Una banalità, siamo in un mondo globale ormai. Globale, perfetto. Allora, visto che abbiamo iniziato il nostro appuntamento e questo era anche l'ultimo spazio di Eclettica, non è terminato il nostro appuntamento di Linea Rock, ci sarà ancora tempo, però l'ultimo insert di Eclettica. Chiederò il bis, vedo qua sulla Holobox. Ah, ci sarà modo di, se volete ritornare, lo sapete che non ci sono problemi. Invece abbiamo detto che negli ultimi due anni questa è stata l'impostazione di Eclettica. Questa è stata l'impostazione di Eclettica che negli ultimi due anni in pratica, a parte eccezioni che non mi sembra di ricordare in questo momento, però negli ultimi due anni dovrebbe essere stata sempre registrata. Sveliamo questo. Sì, sì, sì. Anzi, visto i tuoi spostamenti a livello di familiare, di lavoro, ti sei creato un tuo home recording studios. Yes. Ok, quindi a casa tua, in quel di Arezzo, e sveliamolo che sei toscano pure tu ormai, mm-hmm, in quella bellissima quasi fattoria tua, la tua tenuta, ti sei piazzato questo studio e quindi la produzione di Eclettica avviene e avverrà sicuramente anche in futuro direttamente qua. Comodo così, eh? Comodo, comodissimo. Comodissimo, hai visto? Questa era un'altra delle cose che dovevamo svelare. Invece noi a livello musicale torneremo tra breve con un altro gruppo, un progetto parallelo a quello dei White Stripes, cioè i The Raconteurs. I still think of it. in questo brano in particolar modo sono molto White Stripe, eh? The Rock Counters, questo progetto parallelo che ci porta alle 21 e 24 minuti primi. Abbiamo, caro Giulio, comunque ancora un po' di tempo per chiacchierarcela, eh? Sì, io me la sono chiacchierata un po' sulla Urlobox e mi sono distratto e non ho visto che brani hai messo. Direi che approvo soltanto The Rock Counters. Sì, sì, sì. Il prossimo personaggio di cui non vedi la parte finale, mm-hmm, secondo me è un altro grande, un altro genio. Magari non conosci questo motivo perché è nuovo. È uscito con un album con 21 canzoni. Ha creato i The Jam. Allora, ci sei. Non era Paul McCartney, perché tu vedevi soltanto Paul. Vedevo solo Paul. Ma sai Paul che con questo disco è entrato direttamente al posto. Al primo posto in Inghilterra. Grazie. E tra parentesi, verrà a suonare tra breve ancora in Italia. Quindi è un'altra occasione per vederlo, perché lui è veramente eclettico. Spazia in tutti i generi. È veramente molto, molto bravo. E io l'ho visto in diverse formazioni. Anche negli Style Council l'ho visto. Bravi anche quelli. Altro completamente prodotto, altro genere. Esatto. Sì. Però molto, molto, molto bravo. È uno che invecchia bene. Sì. Si vede che il nome Paul porta bene, vedi? Paul McCartney, Paul Weller, eccetera. Vedi? Ok, allora, ultimi istanti per rimanere insieme a Linea Rock con la coppiata, la doppia voce al mercoledì. Marco Gravelli qua presente, Giulio Caperdoni. Sveliamo che, secondo me, sono partito dicendo abbiamo sempre voci femminili. Settimana prossima ci sarà Claudia. Mm-hmm. Quindi, per tutti gli amanti del buon sano rock and roll, anche Claudia, e visto che c'è la webcam tramite il sito www.radiolombardia.it, sarà possibile finalmente vedere, per chi non la conoscesse, Claudia in webcam, che comunque è sempre un bel vedere. Lei lo sa, perché di solito è molto restia, di fronte a servizi fotografici, si deve preparare una settimana prima dall'estetista parrucchiere, cioè, quindi l'ho già preparata, quindi lo sappiamo. Allora, abbiamo citato Paul Weller, ce lo andiamo ad ascoltare con questo motivo. The smoke is running through your hair. There's a look in your eyes. I see a glint of smile on your face, but I know that smile ain't mine. Our fool begins. Our fool begins. They say everything has a place and time, but this ain't one of those times. I feel there's something in the air. Don't know what, don't know why, but a fool I've been. What a fool I've been. You made up your mind. Made up your mind. Have you made up my mind for me? Made up your mind. Have you made up your mind? Made up your mind. Have you made up my mind for me? Dawn. But where will I be when morning comes? I feel it in my bones. Just don't know where my feet will go. What a fool I've been. Oh, what a fool I've been. Have Your Mind. Beh, la classe, bella canzone anche questa, bell'album, il nuovo di Paul Weller. Abbiamo ancora un 7-8 minuti da stare insieme, il tempo di gustarci le prossime due canzoni, il tempo di cominciare a effettuare i ringraziamenti a tutti gli amici e le amiche che hanno inviato mail. C'è qualcuna che è arrivata ancora adesso, sms, che hanno partecipato ascoltando via etere, ogni tanto si utilizza ancora questo termine, oppure, sì. Oppure che alla fin fine è ancora il mezzo che ti permette di sentire la radio, a parte le varie tecnologie. Agli amici che ci stanno seguendo in streaming dall'Emilia, dalla Toscana, agli amici della Rock Family che come al solito ringraziamo per partecipare attivamente con l'Urlo Box di sera in sera. Dobbiamo svelare che molti di loro cenano con il PC a fianco, la tastiera, eccetera, quindi è un'atmosfera incredibile. Chissà che si come crea. Sono ridotte quelle tastiere. Infatti non vogliamo pensare cosa si trova all'interno. Invece, a proposito, e ritorniamo, caro Giulio, a parlare di musica, un altro gruppo che mi ricordo, il primo album era di musica pop, poi ne fecero un altro tutto rock, un altro molto elettronico, insomma si... Questa qua è un'alzata, e io schiaccio, molto eclettici. Molto eclettici, esatto, Primal Scream. Noi andiamo avanti e purtroppo, se dobbiamo andare avanti, guardiamo l'orologio, siamo arrivati al termine, caro Giulio. Siamo arrivati al termine, comunque ci sarà chi si ascolterà questa trasmissione in differita, probabilmente lo farò anch'io. Ok, da domani pomeriggio sarà sul sito di radiolombardia.it, programmi Linea Rock, e vi le riascoltate, così come già ci sono quelle con il DJ Ariele, il DJ Edo, il DJ Mox, e ci saranno anche le altre. Questo per le diffusioni ufficiali, poi sì. Ci sono anche le diffusioni ufficiose. No? Esatto, ci sono anche quelle. Ci sono anche quelle. Varie strade e modi, naturalmente. Ce ne sono tante. Allora, chi vuoi salutare, Giulio? Se vuoi salutare qualcuno, magari. Beh, prima di tutto voglio ringraziare te, Marco, per questa opportunità che mi hai dato di ritornare in onda. 90 minuti che mi sono sembrati veramente moltissimi di meno, a parlare al microfono, a interagire con gli ascoltatori che con i vari mezzi a disposizione si facevano vivi. Un saluto a tutti, un grazie a tutti per esserci e per permetterci di fare radio, perché se non ci fosse chi ci ascolta, noi cosa potremmo fare? Beh, tu raccoglieresti le olive nel tuo ranch, eccetera, eccetera. Io sarei da un'altra situazione, di sicuro, caro Giulio. Beh, a parte gli scherzi, sorridiamo così. È bello chiudere con sorriso sulle labbra. Veramente un grazie a tutti coloro che hanno seguito l'appuntamento di questa sera di Linea Rock. Nel mio caso, ci ritroveremo domani e vedrai che anche per Giulio, se non qua, da altre parti ci si ritrova sicuramente. Sì. Il sito della Rock Family è il punto di riferimento per sapere che cosa succederà dopo l'estate. Sono contento di vedere che hai scelto Jimi Hendrix come ultimo brano, perché sì. Il mio più grosso rammarico, come ho scritto nel blog, è quello di non avere mai avuto la possibilità di vederlo dal vivo. Mai più la vedremo, soltanto sì. DVD e video vari. E poi questa canzone è una delle sue più belle. Crosstown Traffic, Jimi Hendrix. Giulio Caperdoni vi saluta e vi lascia nelle mani abili di Marco Garavelli. Grazie, ciao a tutti. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam.